in primo piano. Eccoci qua, giovedì 29 aprile. Ebbene sì, ancora la Grecia e ora la Spagna, insomma i conti degli stati, alcuni stati europei che stanno facendo davvero tremare l'Unione. Piano di 120 miliardi per Atene, questa è l'apertura del Sole. Merkel sia i primi aiuti, ma Standard & Poor's declassa anche la Spagna. Corriere della Sera, Spagna declassata, giù i mercati. Repubblica, cade anche la Spagna, trema l'euro. La Stampa, aiuti alla Grecia, sì di Berlino. Per Il Messaggero, Grecia, sì di Berlino agli aiuti. C'è chi sceglie invece la politica, come i due quotidiani di centrodestra, Libero, il piano di Fini contro il PDL. Per Il Giornale invece continua la querelle con Fini. Fini non smentisce, ci insulta. È ovviamente la querelle partita ieri e che sta creando nuovi grattacapi nella maggioranza. Protezione e corruzione, così la cricca riciclava, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. C'è anche una grande attenzione sugli assegni per la casa di Scajola e questo lo troviamo su tutti i giornali, lo vedremo. Ma come detto, il conto greco sale a 120 miliardi. Lo troviamo a pagina 3 del Sole 24 Ore, la cifra triennale stimata dal Fondo Monetario Internazionale, scrive Beda Romano. C'è anche un colloquio con Nouriel Roubini, economista diventato famoso per avere anticipato lo scoppio della bolla immobiliare e il collasso di Wall Street qualche anno fa, che dice a Daniela Roveda: salvare la Grecia è uno spreco di risorse pubbliche. Nouriel Roubini dice: la probabilità di una rottura dell'unione monetaria sta crescendo rapidamente. Il problema della Grecia non è solo un livello insostenibile del debito pubblico, del deficit corrente, ma anche e soprattutto una forte perdita di competitività internazionale. Insomma, la Grecia ha consentito che i salari salissero negli ultimi 10 anni molto più rapidamente della produttività. Risultato? Un rapido e preoccupante aumento del deficit delle partite correnti, giunto ormai al 10% del PIL. Insomma, è un tempo perso, dice Roubini, cercare di salvare la Grecia. L'unica alternativa? Impiegare le risorse pubbliche per ristrutturare il debito greco e pilotarne l'uscita dall'Unione Europea. Insomma, tempo sprecato, risorse sprecate, l'unica pilotare l'uscita dall'Unione Europea. Tra l'altro Roubini dice: attenzione, è questione di giorni, ma esploderà e scoppierà anche il caso Spagna. E Daniela Roveda, che lo intervista, dice: fate attenzione, perché questa intervista è avvenuta prima che Standard & Poor's ieri declassasse poi la Spagna. Quindi Roubini in qualche modo ha detto questo prima che Standard & Poor's decidesse anche che cosa sulla Spagna, perché è la cosa che ora fa tremare anche Madrid. Sempre dal Sole 24 Ore, pagina 5, l'agenzia di rating ha declassato, ha tagliato il rating del debito a lungo termine di Madrid, riducendolo da AA+ ad AA. Implicazioni negative, ovviamente la borsa di Madrid che ha chiuso in negativo. Per la Spagna, il governo spagnolo, il governo Zapatero, una doccia fredda. Ora cominciano anche le critiche. Ieri avevamo letto quella di Fitoussi, durissima nei confronti delle agenzie di rating, dicendo: ma sono loro che hanno causato veramente il collasso finanziario di qualche anno fa e gli diamo loro ancora credito. E adesso tutti criticano le società di valutazione, anche quello che scrive Isabella Bufacchi a pagina 5 del Sole 24 Ore in un commento, cioè comincia ad allargarsi anche il fronte. Lo stesso Strauss-Kahn, direttore del Fondo Monetario Internazionale, a dire: stiano attente le agenzie di rating anche con queste valutazioni che poi hanno implicazioni negative, non bisogna credere troppo a quello che dicono anche se hanno una loro utilità. E sta di fatto che si trema un po' ovunque. Sentite per esempio Jacques Attali, economista, in un'intervista a Repubblica, dice: l'euro può scomparire in pochi mesi. Non è più questione di mesi, ma di settimane. Se non ci sarà un'azione estremamente forte e immediata, l'anno prossimo l'euro non esisterà più. Così dice Jacques Attali, davvero pessimista. Riguardo al piano della Grecia dice: non servirà quasi nulla, ormai l'Unione Europea doveva muoversi 2 mesi fa facendosi subito garante del debito greco, i mezzi per farlo c'erano, purtroppo è mancata l'intelligenza politica. E tra l'altro sulla prima pagina del Corriere della Sera c'è un editoriale, l'editoriale di prima pagina di Francesco Giavazzi, torpori e colpe. Anche Giavazzi adotta questa linea, cioè Il re è nudo, inizia così. Per 4 mesi i governanti europei si sono illusi che bastassero le parole per convincere gli investitori a continuare a sottoscrivere i titoli di Atene. Hanno negato che i trattati europei avrebbero alla fine reso impossibile un salvataggio. Insomma, bugie che si sono poi rivelate così. Bisogna ricominciare da cosa, dice Giavazzi, in conclusione del suo editoriale, chiedendosi cosa si deve fare per far ripartire la crescita. La risposta è semplice. Per Giavazzi, non andare in pensione a 60 anni, non proteggere le rendite di qualche corporazione potente che opprime i cittadini, aprire i mercati alla concorrenza per creare più occasioni di crescita alle imprese. Non mi sembrano le priorità del nostro governo. Chissà che lo spavento greco e il rischio che prima o poi gli investitori perdano fiducia anche nei nostri titoli non ci aiuti a uscire dal torpore. Dunque, parte dalla Grecia, ma parla in fondo anche dell'Italia. Giavazzi sul Corriere della Sera in prima pagina. Infine, in questa lunga pagina, insomma, di paginate che trovate su questo tema, davvero che è il tema economico che allarma tutti, Tremonti ha già messo a punto il decreto legge per stanziare la quota italiana del prestito alla Grecia, pari a 5,5 miliardi su 45 miliardi complessivi, 30 dei quali dai partner europei, 15 dal Fondo Monetario Internazionale. Potrebbe essere approvato già domani, anche se Tremonti sarà a Berlino, ma potrebbe essere già approvato appunto nel Consiglio dei Ministri con i 5,5 miliardi che saranno convogliati nella linea di credito da 45 miliardi a disposizione del governo di Atene per il 2010. Nessuna emissione ad hoc di titoli di Stato verrà prevista, il Ministero attingerà al fondo di tesoreria. Lo trovate a pagina 5 del Corriere, pronto il decreto per Atene. Questa è la pagina economica, davvero molto densa e anche densa di preoccupazioni, è inutile negarlo. Per quel che riguarda la pagina politica, niente, pare che in questo tira e molla sia un po' riesplosa Maretta, c'è qualche scricchiolio che avanza nei rapporti tra Fini e Berlusconi. Ieri questo duro attacco del Giornale, che è stato un po' il fatto che il Giornale, ricordate, ha tirato in ballo la questione che 1,5 milioni della RAI vanno a una società riconducibile alla mamma della compagna di Fini. Elisabetta Tugliani, la mamma di Elisabetta Tugliani, avrebbe delle quote in una società che prende 1,5 milioni di euro dalla TV di Stato per fare dei programmi. L'attaccano la suocera di Fini. E allora Fini si è molto adombrato, si è molto arrabbiato, però in realtà pare che questa sia una strategia addirittura. La Stampa, Amedeo La Mattina, pagina 7, dice che Berlusconi è infuriato. O dentro o fuori, o io o lui, continua a ripetere ai suoi fedelissimi, e parte del logoramento di Fini dovrebbe passare proprio attraverso il Giornale. Vittorio Feltri scrive a Amedeo La Mattina: fonti vicine al Cavaliere assicurano che Feltri non mollerà la presa, con attacchi soprattutto a livello personale nei confronti di Fini. La guerra è proprio questa, soprattutto passerà anche attraverso la compagna Elisabetta Tugliani. Una torsione che fa infuriare l'ex leader di AN più di ogni altra cosa. Pare che la strategia di Berlusconi sia metterlo alle strette per fargli perdere i nervi, scrive Amedeo La Mattina. O stia dentro o stia fuori, ripete infatti Berlusconi. Oggi è il giorno in cui, per esempio, anche sul Corriere della Sera, leggete qui, continua ad attaccarmi, sarebbe il retroscena di Berlusconi. Così non si va avanti, o io o lui. Insomma, è sempre in TV. Ieri Fini è andato a porta in questa maratona televisiva che effettivamente sta facendo dopo la direzione. Prima è andata da Lucia Annunziata, poi a Ballarò, poi a porta. E la rabbia del Premier è questa. Si parte oggi da Italo Bocchino. Oggi si vota, diciamo, le dimissioni. E infatti, Libero anche, credo che dica, la prima cosa che è arrivata. Prima cosa che ha detto Berlusconi ieri arrivando, no, il Giornale, il Cavaliere stufo dei boicottaggi, ad Alberto Signore a pagina 5, appena arrivato ieri a parlare con i suoi fedelissimi, ha detto subito via Italo Bocchino, non lo voglio più vedere. E oggi pare che sia il giorno da questo punto di vista, anche perché ieri, perché dico scricchiolii? Perché ieri c'è stata una votazione nella quale la maggioranza è stata battuta, è passato un emendamento del PD secondo il quale sull'arbitrato, no? L'arbitrato potrà essere scelto al momento del licenziamento e non più al momento dell'assunzione. La questione dell'arbitrato in alternativa al giudice nei casi di licenziamento, tra l'altro un provvedimento che aveva fatto anche molto discutere. Che è successo? C'erano 100 deputati, un centinaio del PD, della maggioranza, 11 della Lega e gli altri 89 del PDL, assenti. E quindi è passato un emendamento per un solo voto del PD. Pare si sia sfiorata la rissa tra chi? Giancarlo Lehner, berlusconiano doc, e Nino Lopresti, finiano, perché si sono incontrati fuori dall'aula e Lehner ha detto: cos'è? È il primo agguato al governo che fate? A questo punto versioni divergenti, qualcuno parla di uno spintone tra i due, Nino Lopresti che dice: io non ho spinto nessuno ma sono stato aggredito verbalmente, non mancavano solo i Fignani, mancavano 100 deputati della maggioranza, quindi come possono essere solo i Fignani? Insomma, questa è la tensione, si teme che cosa? Il logoramento, tanto che andiamo a vedere che cosa titola Libero titola in prima pagina che cosa? Un retroscena di questo tipo, lo firma Franco Bechis, il piano di Fini contro il PDL, il piano pronto da tempo, dall'autunno scorso era questo secondo Libero. E Bechis, Franco Bechis dice: lo abbiamo appreso parlando con alcuni dei fedelissimi di Fini, ovviamente sotto anonimato, il piano era far cadere Berlusconi e ricostruire una sorta di democrazia cristiana con Rutelli e Casini. Tutto questo però doveva passare dalla sconfitta di Renata Polverini alle regionali del Lazio, la sconfitta che Fini dava per certa. Lo raccontano a Libero alcuni dei suoi fedelissimi che dicono ebbe colloqui con Casini, con Rutelli, aveva intenzione di aprire la crisi della gestione del PDL proprio partendo dal caos della mancata presentazione delle liste a Roma. Che cosa è stato il risultato? Il risultato è che però alle regionali la Polverini ha vinto. E allora alcuni dei suoi fedelissimi gli hanno detto, per esempio Amedeo La Boccetta che parla Libero: prendiamo atto che non è andata come pensavamo e quindi bisogna rimodulare la situazione. Ma a quel punto alcuni, come Italo Bocchino, si erano ormai spinti avanti: no, bisogna spaccare tutto, bisogna andare avanti. Io dicevo, dice Amedeo La Boccetta, Gianfranco, fermati, hai ragione su molte cose, ma la realtà è diversa, ma alcuni erano già andati troppo avanti. Insomma, questa è la ricostruzione di Libero. Mentre, come detto, il giornale, oggi bisognerà sempre guardare il giornale a questo punto, visto che Fini si è molto adombrato per gli attacchi, Berlusconi ha detto: io non c'entro niente col giornale, anche se l'editore è mio fratello, anzi, solidarietà a Fini. Fini non smentisce e ci insulta, c'è Vittorio Feltri in prima pagina. Abbiamo detto che va 1 milione alla suocera di Fini e succede un 48. Perché la notizia è falsa? No, è vera. O il mondo è capovolto del giornalista, avevamo sempre creduto che il nostro mestiere fosse raccontare la realtà, ma secondo i nostri censori non è così. E poi attacca Fini, che ci insulta, ci dice, va a porta, dice che il nostro è giornalismo spazzatura, melma, fango, per non dire merda. Insomma, Fini dice, non può smentire, scrive Feltri, e allora ci insulta. Soldi in nero con 80 assegni per l'immobile di Scajola. Sono due pagine, 8-9 del Corriere, ma lo trovate ovunque. La casa in nero di Scajola per Il Fatto, per Repubblica, Perugia, gli 80 assegni che accusano Scajola. Insomma, è la vicenda dell'inchiesta che ha visto gli arresti della cosiddetta cricca, come definita tra virgolette, per i grandi appalti, indagando secondo i PM. Allora, la persona chiave sarebbe l'architetto Angelo Zampolini, interrogato, che avrebbe fatto delle transazioni di denaro per l'acquisto di immobili poi intestati appunto a uno a Scajola e uno al generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru. La prima operazione, scrive Fiorenza Sarzanini, pagina 8 Corriere, per l'acquisto di un immobile risale al 6 luglio 2004. I magistrati l'hanno ricostruita così. Zampolini, l'architetto, versa quel giorno 900.000 euro in contanti su un conto dell'agenzia 582 della Deutsche Bank di Roma. Subito dopo ottiene l'emissione di 80 assegni circolari all'ordine di Barbara e Beatrice Papa per valuta corrispondente per l'acquisto, nell'interesse di Claudio Scajola, di un immobile intestato al suddetto. L'accusa dei pubblici ministeri è questa: in questo modo trasferiva denaro, compiva l'operazione tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza da delitti contro la pubblica amministrazione. Secondo le verifiche della casa di finanza, della Guardia di Finanza, la casa sarebbe costata circa 1,5 milioni di euro. La somma gestita dall'architetto sarebbe stata versata in nero. L'indagine mira a verificare per quale motivo Diego Anemone, uno degli imputati, abbia deciso di comprare un appartamento di prestigio per Scajola. E poi anche per la stessa vicenda simile per il generale della Guardia di Finanza, appunto, Pittorru. La casa in nero di Scajola, e Marco Lillo, appunto, sul Fatto, pagina 6, molto duro, addirittura a un certo punto Lillo dice: ieri Scajola si è adombrato, non ha voluto rispondere alle nostre domande, perché se lo avesse fatto avrebbe dovuto dire che era un bugiardo e un evasore fiscale. Questo Marco Lillo a pagina 6 del Fatto. La politica è tutta qui, segnalo solo per il tema il PD che fare, trattare o no confini. Oggi ne parla Massimo D'Alema a pagina 15 del Corriere, intervista Maria Teresa Meli, dice: è un errore non comprendere che Fini è un interlocutore. Fini è un interlocutore, dice D'Alema. Allora, lasciamo la politica. Il nostro sondaggio, come detto, è quello delle adozioni internazionali. Trovate paginate ovunque, perché il tema è molto interessante. Dal Giornale, dal Secolo XIX, dal Corriere, Repubblica. Non si sceglie il colore della pelle. Una coppia di Catania aveva detto: vogliamo un'adozione. Basta che il bambino non sia nero e non abbia anche ritardi di sviluppo. E i giudici di Catania avevano dato ragione, avevano acconsentito, avevano detto: va bene, siete dichiarati adottabili. L'associazione AIBI ha fatto ricorso in Cassazione dicendo è una scelta palesemente razzista, e la Cassazione, che non si è ancora pronunciata, ma l'orientamento è questo. Il procuratore generale della Cassazione ha detto: effettivamente è una scelta razzista, non si può fare così. E tra l'altro il sottosegretario Giovanardi, Carlo Giovanardi, al Giornale dice: è vero, quel tribunale dei minori di Catania che aveva consentito a dare l'adozione ai genitori che la volevano, purché non fosse nero, ha sbagliato, come tutti quelli che emettono decreti di adozione vincolante a una razza. È un qualcosa di contrario agli accordi internazionali. Hanno tutti sbagliato questi tribunali che nel passato hanno anche scelto cose del genere. Noi vi chiediamo: che ne pensate? Adottare un bambino, la Cassazione dice chi adotta un bimbo non può scegliere il colore della pelle. Siete d'accordo? Ne parleremo alle 8.30. Tra l'altro avremo anche un giudice che in passato ha preso una decisione simile, non sto dicendo uguale, simile. Ci spiegherà perché in questi casi un tribunale dei minori può decidere in questo senso. C'è grande dibattito sui giornali, se ama le segnalazioni conclusive, sul 1° maggio. Io sono quasi certo, domani ne vorrò parlare. 1° maggio ci saranno città che terranno i negozi aperti. Questo nella festa del lavoro per antonomasia mondiale ha suscitato molto scalpore. Perché qualcuno dice: ma come, in nome del mercato, in nome del profitto, bisogna tenere i negozi aperti anche perfino il 1° maggio? I comuni si sono spaccati. C'è chi dice, per esempio, a Milano alla fine hanno rinunciato, troppe tensioni, chiudete i negozi. C'è invece chi dice: no, la libertà di poter tenere aperto anche il 1° maggio. I negozi aperti, Perugia in un modo, Monza, Napoli, Firenze, su Repubblica ci sono 3 pagine, un commento di Adriano Sofri, sul Corriere, sul Quotidiano Nazionale, tutti ne parlano. Come tutti parlano, chiusura dell'impresa dell'Inter. Bisogna, quel che è giusto anche da milanista, insomma. Impresa eroica dell'Inter, Inter muro di gloria, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Ci sono paginate di colori nerazzurri trionfanti, insomma, c'è ancora la finale da giocare, ma la finale è una bella partita poi da vedere, secca. Gene Gnocchi, chiudo così, Luciano Moggi è stato radiato da ogni ruolo nel calcio, il terrore si diffonde tra gli appassionati degli altri sport.